sentiamo dolore contro di noi, perché possiamo la vita, guardiamo il tempo, alle spalle un rumore, cos'è? Aspetta, è solo una carezza, giusto o sbagliato non so, e sappia nei pugni il tempo che resta, ma tienimi con te. Le strade lavate, ma se provo i piedi ci sto. Batto le mani, lo show non è finito, ma il sipario si è chiuso qui. Ci sono regine, solo api operaie che volano.